Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'inizio di Eclettica. Eclettica che in questa settimana vede come protagonisti Tiziano Terzani con Il figlio Folco, e sto parlando della parte delle letture, che vede come protagonisti quasi all'estremo opposto i Simpsons con gli sprazzi cinematografici dal loro film di recente uscita, e vede come protagonista la musica, che non fa riferimento a nessun genere in particolare, e da qui il nome della trasmissione. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni tutti i giorni, fra le 19 e le 20, altrimenti disponibile in podcasting. Ogni volume, diviso in due parti, è facilmente recuperabile, scaricabile e riascoltabile con il supporto che voi preferite. A questo punto, siamo pronti per cominciare. Perché il potere corrompe, il potere ti fagocita, il potere ti tira dentro di sé, capisci? Se ti metti accanto ad un candidato alla presidenza in una campagna elettorale, se vai a cena con lui e parli con lui, diventi un suo scagnozzo, no? Un suo operatore. Non mi è mai piaciuto. Ho sempre avuto questo senso di orgoglio, che io al potere gli stavo di faccia, lo guardavo, lo misuravo e lo mandavo a fanculo. Aprivo la porta, ci mettevo il piede, entravo dentro. Ma quando ero nella sua stanza, invece di compiacerlo, controllavo che cosa non andava, facevo le domande. Sono stato uno dei giornalisti che alle conferenze stampa del mondo era proverbiale per fare sempre le domande più provocatorie, quelle che non vedi più fare oggi. Quelle che non vedi rivolgere alla Condoleezza Rice che l'altra sera diceva «Le Nazioni Unite ora ci stanno bene, bastava che uno si riprendesse i giornali di 2 anni fa». «Un momento!» Lei il 14 maggio alle 5.40 alla CBS ha detto «Le Nazioni Unite sono irrilevanti, sono piene di assassini e sono piene di dittatori». E ora le Nazioni Unite sono il toccasana? Ma ci piglia per il culo! Questo era ancora «La fine è il mio inizio» di Tiziano Terzani. We'll be right back. Sorry. No dumping in the lake. Fine. I will put my yard trimmings in a car compactor. Chief, I think there was a dead body in there. I thought that too, until he said yard trimmings. You gotta learn to listen, Lou. Si è appena chiusa Mai, la canzone degli OK, la band californiana il cui cantante è costretto in casa ed è lì che incide anche tutte le canzoni con il suo gruppo. Costretto in casa, costretto nella sua camera da letto dal morbo di Crohn, che nelle scorse settimane abbiamo avuto anche modo di conoscere nei suoi dettagli grazie ad un ascoltatore che, suo malgrado, lo conosce purtroppo molto bene. Invece Eclettica si era aperta con i Lady Hawk, con I Don't Always Know What You Are Saying, e prosegue con una canzone che è disponibile, come novità, in download gratuito. Sto parlando della nuova dei Clinic, band inglese che trova sempre spazio con le sue nuove prove discografiche di volta in volta all'interno delle playlist di Eclettica. Questa sicuramente non è una fra le migliori, ma ha il suo perché. Clinic quindi in free download, che ci ascoltiamo con la canzone Free Not Free. Make it known. Mi sono spesso chiesto, strada facendo, da dove sarebbe arrivata la soluzione al problema che affrontiamo. Quello dell'umanità che mi sembra stia annaspando nella sua ricerca di una soluzione a quello che non va. Una volta, attraversando in nave lo stretto di Malacca, in una di quelle belle serate in cui si stava sulla tolda della nave a guardare il tramonto, vidi all'orizzonte decine di splendide isolette e mi venne la divertente idea che la soluzione sarebbe arrivata da una congiura di poeti. Perché soltanto la poesia, mi pareva, potesse ridarci una spinta di speranza. Identificai un'isola lontanissima, insignificante, che non era segnata su nessuna carta, ma in cui mi immaginavo crescesse una generazione di giovani poeti che aspettavano il momento di prendere in mano le sorti del mondo. Avevo, in qualche modo, il sentimento che non c'era una soluzione nei partiti, nelle istituzioni, nelle chiese, dove tutti ripetono le stesse cose, oggi per giunta senza neanche più quella carica ideologica che c'è stata nel passato. Questo era ancora la fine e il mio inizio di Tiziano Terzani. Fog lifts from the harbor, dawn goes down today, an agent crests the shadows of a nearby alleyway, piles of broken bricks, signposts on the path, every moment points toward the aftermath. Yeah. Sailors straggle back from their nights out on the town, hopeless urchins from the city gather. Spies from Imperial China wash in with the tide. Every battle heads to war. Surrender on both sides. And I am coming home to you with my own blood in my mouth. And I am coming home to you if it's the show up on a few high window sills, and a rabbit gives dogs up somewhere and a dozen hawks descend. Every moment leads toward its own sad end. Yeah. Ships loosed from their moorings capsize and then they're gone. Sailors with no captains watch a while and then move on. And an agent crests the shadows and I head in her direction. All roads lead to Vorn, the same blocked intersection. I am coming home to you with my own blood in my mouth. And I am coming home to you if it's the last thing that I do. Narrowed your choices down to five unthinkable options. Each will cause untold misery. I pick number three. You don't even want to read them first? I was elected to lead, not to read. Number three. Thank you. Erano questi gli italiani Hollow Blue, toscani per la precisione, con il pezzo Tiger, estratto dalla loro ultimissima prova. Prima ancora The Mountain Goats, che ci siamo riascoltati con Sax from Her No. 1, ed ora a chiudere la prima parte di quest'oggi George Pringle. Lei proviene da Oxford, fa musica da tanti anni, ma ha trovato la sua formula solo da pochi, una formula che si basa su musica elettronica realizzata con il suo iBook G4, al quale ha dato anche un nome, Truman, e su questa musica recita poesie. George Pringle, che ci ascoltiamo con I'm Very Scared Buster, Yes At Last. Oh, wind sets in and it's gripped my neck and rowing boats and tape cassettes sailed south with the wind. And laundrettes and lucky bets are among the list of things that fled. I have a cold again. And once more, stapled to the floor, staring at bright white screens and thinking of boys with hearts of stone. There's a polyglider plane hung from my lampshade and it's nosedived at nothing. It's fading under light strain and a pink ribbon's hung limp around its belly. Winter's setting thick just beyond these rooftops and the spires puncture the sky like sandstone needles and I'm weary of the wind. And my throat's all scratched from cigarettes and my heart is heavy. If only you knew. If only you knew. So beautiful when the sun hit panes of glass and my knees bent down the street and rattling in the cold and the world seemed violet behind dark glasses. Ultraviolet, like the skin that's stained under my eyes after Saturday night. Once more, stapled to the floor. Summer was ferocious, the cat that bit my heels and it ripped right through me. The floor is a sea of me. Mascara, eyeliner, blown on tissues, beads, CDs, jumper, empty cans and ironed books, remote control, glasses case, mug, paperweight, stereo, typewriter, drawing board, action tracker, shoe pen, mitten, watch, ticket, vinyl, scarf, sock, lantern, slipper, beads, brush. Iron, book, remote control, hope I die before I get old. Jumper, CD, glasses case, I haven't got a heart to break. Iron, book, remote control, hope I die before I get old. Jumper, CD, glasses case, I haven't got a heart to break. Iron, book, remote control, hope I die before I get old. Jumper, CD, glasses case, I haven't got a heart to break. Woo! I haven't a heart to break, so I'm off to